questo giovedì 7 giugno. Alcuni giornali aprono sulla svolta che c'è stata ieri in tarda serata. Forse non lo sapete, forse avete sentito GR24, una svolta importante. È stato fermato e avrebbe confessato l'autore dell'omicidio di Brindisi, quello in cui è morta la ragazza, l'esplosione davanti alla scuola. Non c'entrerebbe la mafia, non c'entrerebbe, sarebbe una vendetta personale da parte di una persona fermata, una persona tra l'altro che lavora nel campo proprio delle bombole. Vabbè, intanto i titoli per il Sole 24 Ore: l'industria italiana arretra, fare di più per la crescita. Per il Corriere della Sera: partiti in tensione, voglia di voto, ma in alto anche fermato un benzinaio per la bomba alla scuola. Repubblica: preso il killer di Brindisi, è un rivenditore di bombole, ha confessato, dicono i magistrati. Per la Stampa, anche qui, Brindisi confessa l'assassino di Melissa. Il Messaggero: preso l'uomo della bomba. Mentre per Libero, i balilla del fisco, Befera arruola bambini spia. È una vicenda che poi vedremo. Il Fatto Quotidiano: il memoriale Gotti tedeschi, vogliono uccidermi. L'ex presidente dello IOR, anche ieri mi ha colpito quello che diceva la Stampa: al momento della perquisizione avrebbe confessato, pensavo fossero venuti a uccidermi. Accidenti. Il Manifesto: i garanti di Grillo, avanti così, soddisfatti e lottizzati, la vicenda delle nomine. Per il Giornale invece la proposta PDL, ecco la mazzacasta, mentre l'Unità, PDL, Lega, alleanza occulta. Questi alcuni dei titoli di apertura. Come vedete ci sono scelte diverse. Io voglio partire proprio da quello che è successo ieri, una giornata molto convulsa al Senato. Ci sono stati dei salvataggi, non solo al Senato, qualcuno tira in ballo anche la vicenda Formigoni in Lombardia, vicenda totalmente diversa. Il primo è stato la prima vicenda che fa scalpore per qualcuno, è il no all'arresto di De Gregorio, senatore accusato di reati molto gravi per la vicenda dei fondi pubblici all'Avanti. Questo è il titolo che ho letto da pagina 18 del Sole 24 Ore. Lina Palmerini racconta la giornata politica. Il no all'arresto di De Gregorio, votato dal Senato, dopo che la giunta per l'autorizzazione a procedere aveva detto sì, si voti per l'arresto, ma nel segreto del voto dell'Aula, poi l'Aula ha respinto invece questa richiesta di arresto. Come ha esordito Marco Follini, senatore del PD, che in giunta per le autorizzazioni aveva invece detto votate per l'arresto, eccolo qui, un altro spot per Beppe Grillo. L'Aula del Senato ha appena respinto la richiesta della magistratura che indaga sui fondi pubblici all'Avanti, dopo che proprio Follini aveva costruito in giunta la maggioranza a favore dell'arresto. 169 i voti contrari invece all'arresto, 109 i favorevoli. Si è votato in segreto e già subito si profila l'idea di uno scambio, perché tra una settimana si voterà invece sul caso Lusi, l'ex tesoriere della Margherita. Allora subito i giornalisti dicono, e qualcuno anche in Parlamento ipotizza, uno scambio: voi salvate De Gregorio e noi salveremo Lusi, tanto c'è sempre il segreto del voto segreto. Il Secolo XIX a pagina 6 mette insieme le due vicende, De Gregorio e Formigoni, la casta si autoassolve. Ieri si votava la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Formigoni, che non è indagato di nulla, insomma, invece il senatore De Gregorio, per lui è stato richiesto l'arresto, quindi vicende completamente diverse giudiziarie. Però il concetto, il Secolo XIX le mette insieme per dire la casta si autoassolve. A questo proposito vorrei leggere l'editoriale di Massimo Gramellini in prima pagina della Stampa di oggi. Il titolo è La dissolvenza della casta. Scrive Gramellini, partendo dalla vicenda della regione Lombardia, dove non è passata la mozione di sfiducia contro il presidente Formigoni. Esito abbastanza prevedibile, ma qui c'è una comica, un risvolto comico incredibile. Sentite questa che racconta Gramellini. Quello che non era prevedibile, neanche in una gag di Crozza o in un incubo di Bersani, era che al momento del voto il primo firmatario della mozione contro gli yacht di Formigoni fosse assente perché impegnato a prendere il sole su una spiaggia greca. Si chiama Luca Gaffuri, un cognome che è già un indizio. hanno fatto apposta mettere la mozione ai voti mentre ero in vacanza. Si è difeso maldestramente il gaffer, capogruppo del Partito Democratico, e sì che ne avrebbe avuto di tempo per esplorare la Grecia, in yacht, in motoscafo, perfino in gommone. Ad aprile, infatti, il Consiglio regionale lombardo, stremato dagli straordinari della Minetti e del Trota, si era autoelargito un ponte di 3 settimane. Cioè, avete capito, il capogruppo del PD che aveva chiesto, primo firmatario della mozione per sfiduciare Formigoni, ieri al momento del voto era in vacanza in Grecia. Una cosa effettivamente singolare. Continua Gramellini. Al Senato, invece, a Roma, intanto, andava in scena il salvataggio del molto onorevole senatore Sergio De Gregorio, già fondatore dell'Associazione Italiani nel Mondo, poveri italiani, ma soprattutto povero mondo. Imputato di bazzecole quali associazione a delinquere, truffa, false fatturazioni per 23 milioni di euro. I giudici avevano chiesto l'arresto di De Gregorio e la giunta per le immunità si era dichiarata per una volta d'accordo, ma nel segreto dell'urna 169 senatori hanno votato contro il trasferimento in carcere del santuomo. Sulla torta quotidiana della casta mancava la ciliegiona a metterla i pasticceri dei 3 partiti maggiori che hanno colto l'occasione delle nomine delle autorità comunicazione e privacy per dar vita a una famelica e scientifica spartizione di posti. L'aspetto insopportabilmente ipocrita della faccenda è che per darsi un tono i partiti avevano sollecitato l'invio di curricula di alcuni tra i giuristi più prestigiosi, Zagrebelsky su tutti. Naturalmente nessuno li ha presi in considerazione, ne hanno fatto carta d'accesso, ha sintetizzato Di Pietro con la consueta brutalità, supponendo ottimisticamente che li avessero almeno srotolati. Più probabile invece che giacciano intonsi in qualche cassetto. Questo Massimo Gramellini, la dissolvenza della casta in prima pagina della Stampa, ma sulla vicenda Authority ci torneremo più tardi, non solo alle 8.30, anche nella lettura dei giornali, perché questa delle vicende dell'Authority davvero è un qualcosa che i giornali trattano approfonditamente. Voglio però, prima della pubblicità, segnalare un'altra notizia che riguarda il mondo della casta, così andate tutti al lavoro belli, allegri e soddisfatti. La dà il Quotidiano Nazionale a pagina 6 e 7, la vita allegra dei senatori con la cassa dei gruppi. A Palazzo Madama, racconta Andrea Cangini, decine di parlamentari si sono intascati una valanga di soldi, almeno 40 parlamentari, sono partite le segnalazioni, non si fanno nomi in quest'articolo, ma si racconta la storia di una quarantina di operazioni bancarie sospette segnalate dalla BNL all'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che provvederà a sua volta a girarle al nucleo speciale di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Questo infatti impone una legge quando un operatore finanziario sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio. Riguarda la ricca cassa, 40 milioni di euro, dei trasferimenti per i parlamentari. Ci sarebbero coinvolti parlamentari del PD, della Lega, dell'UDC. C'è pure chi, racconta Cangini, viene con l'amica e si porta via migliaia di euro. È una vicenda che è raccontata e sparata a pagina 6 e 7. 40 segnalazioni, non ci sono i nomi, ma c'è il senatore che si presenta in compagnia dell'amica e esce dalla banca con migliaia di euro in tasca, cioè una filiale della banca BNL all'interno del Parlamento, dove vengono trasferiti tutti i soldi che arrivano ai partiti e i partiti mettono a disposizione dei gruppi parlamentari. Pare da quest'articolo che fosse una sorta di bancomat per diversi prelievi così allegri. Vedremo, perché se la notizia è sparata così dal Quotidiano Nazionale, immagino che domani ci saranno o ci possano essere degli sviluppi su questa vicenda che andremo ovviamente a segnalarvi. Intanto ci fermiamo per la pubblicità e il meteo per 5 minuti e poi ripartiamo ancora dalla giornata politica davvero e dalla cronaca anche di Brindisi, ma la giornata politica poi regala ancora molto sul tema Authority, che approfondiremo poi alle 8.30 tra poco. Siamo qui allora alle 7.35 minuti, devo dare spazio doverosamente alla cronaca, perché la notizia di ieri sera, che voglio ripetere, visto che magari siete all'ascolto da poco, avrebbe confessato, è stato fermato e avrebbe confessato l'uomo che ha causato la tragedia di Brindisi, l'attentato alla scuola di Brindisi. in cui è morta Melissa Bassi, avrebbe confessato. Si tratterebbe, ma insomma gli inquirenti ormai stavolta dicono, dopo 9 ore di interrogatorio ha confessato, ha parlato, ha detto: l'ho fatta io la bomba, l'ho costruita io, l'ho pensata da solo e l'ho messa lì. Si chiama Giovanni Vantaggiato, ha 68 anni, è titolare di un deposito di carburanti agricoli a Copertino, in provincia di Lecce. Alcuni giornali sono riusciti, diciamo, ad aprire su questo. La vicenda è arrivata ieri, il fermo ieri alle 10, la confessione attorno, credo, alle 2 di notte, almeno così dicono le agenzie. Bomba di Brindisi, fermato un benzinaio, titola per esempio il Corriere della Sera a pagina 2, ma Francesco Viviano su Repubblica invece dà già più dettagli a pagina 6. Ho messo io la bomba a scuola, fermato un pensionato, fu una vendetta. Non si capisce ancora molto se è stato lui, come ha confessato, il motivo, il movente di questo terribile attentato. Certo, è la conferma che non c'entra per nulla la pista mafiosa, non c'entra per nulla la pista di un complotto, avrebbe agito da solo. La svolta che ha portato all'individuazione della stragista è arrivata ieri mattina poco dopo le 11, racconta Francesco Viviano su Repubblica. Sono state le sue automobili a tradirlo, una Fiat Punto di colore bianco, filmata dalle telecamere in via Palmiro Togliatti, via Aldomoro, via Galanti alcuni giorni prima della strage, e una Hyundai Sonic azzurra. La prima, la Fiat Punto, è stata utilizzata per un sopralluogo. C'è chi dice anche la notte del 18 maggio per trasportare le 3 bombole di gas e l'innesco. Lui all'inizio nega tutto: non vado a Brindisi da mesi, quella mattina ero qui a Copertino nel mio deposito di carburante. Nega, ma poi alla fine ammette proprio nella notte: sì, sono stato io. Ora ovviamente si cerca di capire i moventi di quella che potrebbe essere una vendetta personale. Davvero una vicenda che sembra chiusa, almeno per quel che riguarda la individuazione del colpevole. Staremo a vedere che sviluppi ci sono per capire i motivi di questo gesto compiuto da questo pensionato di fronte alla scuola, all'istituto Morvillo Falcone di Brindisi. E questo per quel che riguarda la cronaca. Ripeto, i giornali danno vari dettagli, ce ne saranno immagino di più domani, essendo avvenuto questo fermo ieri sera attorno alle 10. C'è molto di più di politica. Allora, di politica qualcosa abbiamo raccontato di questa giornata davvero intensa per chi ci vuole sguazzare nel tema dell'anticasta. Il no all'arresto del senatore De Gregorio, dopo che la giunta per l'autorizzazione aveva detto di sì, ma nel segreto dell'aula hanno votato contro. Poi c'è la vicenda, per chi vuole, anche di Formigoni, che una mozione di sfiducia, ma è stata proposta da uno che poi era anche in vacanza in Grecia e poi non è passata. I partiti sono in subbuglio. Come detto, il Corriere titola così in prima pagina: partiti in tensione, voglia di voto. Allora, sono tutti in tensione, in subbuglio. Il Popolo e la Libertà, ancora oggi si vocifera di Berlusconi che pensa a una nuova Forza Italia. Questo è il titolo a pagina 13 del Corriere della Sera. L'ex presidente del Consiglio è convinto, scrive Paola Di Caro, ormai straconvinto che si finirà per votare a ottobre. E non solo nel suo partito come nel PD, come a Silvio Berlusconi risulta da contatti informali tenuti in questi giorni. Perché? Perché è la forza delle cose a spingere in questa direzione. Anche Mario Monti, dicono nel PDL, sarebbe preoccupato per la china che stanno prendendo gli eventi, per lo sbrindellarsi quotidiano di una maggioranza sempre più in difficoltà e in attesa di novità decisive dal vertice di fine giugno, che potrebbero raddrizzare il piano inclinato che sta facendo scivolare la legislatura verso la fine anticipata. Insomma, qualche giorno fa c'è stato Stefano Fassina del PD, poi sconfessato dal suo partito, a dire non è neanche escluso che si possa votare a ottobre. Ora, secondo i rumors, Berlusconi sarebbe convinto si andrà a votare a ottobre. Vuole cambiare il partito, non si sa bene come. Oggi c'è una lunga lettera del presidente del Senato Schifani, pubblicata dal Foglio, prima pagina e pagina 4. È la lettera manifesto anticipata ieri dall'agenzia, che ha fatto già creare molto subbuglio all'interno del Popolo della Libertà, perché il presidente del Senato Schifani dice: la situazione è drammatica e lo scenario politico, più che verso la compattezza, tende verso una confusa e rissosa disgregazione. E poi Schifani parla del suo partito, il PDL. A cominciare dal mio, i partiti tradizionali, il grado di incertezza è diventato così alto da penalizzare gli slanci più sinceri, le passioni più genuine, le storie più belle. Si può restare insensibili di fronte al lento sfilacciamento di un partito che è stato e resta l'architrave dell'Italia moderata e liberale? Io non me la sento di girare lo sguardo dall'altro lato. È una lunghissima lettera che, nella quale Schifani parla anche di no a derive grillismo. Le convinte dichiarazioni di Berlusconi a sostegno di Monti un giorno, il giorno dopo, anche e soprattutto sui giornali, si leggono titoli improntati al grillismo più avventato. Come meravigliarsi poi se la gente, soprattutto la nostra gente, non va a votare? Il nostro elettorato è salito sul l'aventino dell'astensionismo perché non capisce più cosa vogliamo, perché non vede più nel PDL né la coerenza né l'affidabilità. Insomma, un Renato Schifani che critica molto. Questo crea un dibattito all'interno del partito. Per esempio Matteoli oggi gli risponde con un'intervista sul Messaggero a pagina 9. Sono toni sbagliati. Il riferimento al grillismo non lo capisco proprio. E poi chiosa Matteoli, una volta i presidenti del Senato stavano zitti e non prendevano carta e penna. Alcuni addirittura si autosospendevano dal partito. Insomma, in questa intervista di Marco Conti sul Messaggero a pagina 9, Altero Matteoli è molto duro nei confronti di questa presa di posizione di Schifani. Dall'altra parte il PD. Il PD è alla vigilia di una direzione di partito, domani, nella quale si affronteranno varie questioni, immagino anche la richiesta di Fassina di dire si può votare a ottobre, pare che Bersani sia molto arrabbiato. Poi Bersani ha detto si faranno le primarie, io mi candido. E qui attenzione, c'è D'Alema. D'Alema interviene sempre nei momenti cruciali, secondo Repubblica, nel retroscena di Goffredo De Marchis, che è sempre molto ben informato quello che succede all'interno del Partito Democratico, a pagina 11, D'Alema stoppa le primarie di Bersani. Gli avrebbe detto D'Alema: stai facendo un grave errore, perché ora si parlerà solo di primarie tra te e Renzi, il sindaco di Firenze, che pare siano i due che vogliono fare le primarie, i due più accreditati per poi essere candidati premier per il centro-sinistra. E quindi si parlerà solo di questo, il tema te e Renzi, non si parlerà più di politica. E questo è un errore esiziale, avrebbe detto D'Alema a Bersani. D'Alema, che tra l'altro, scusate, io l'ho messa su Twitter dicendo che da questa mattina, quando l'ho vista, non sono riuscito a smettere di ridere per un quarto d'ora, perché pare che D'Alema, così dice, giura il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli, un'altra ben informata di quello che succede all'interno del Partito Democratico, a pagina 15, D'Alema sarebbe pronto a lasciare il Parlamento, cioè a non ricandidarsi alla prossima legislatura, per dimostrare di non essere attaccato alla poltrona. Che io non lo so da quanti anni fa politica D'Alema, da quanti anni è in Parlamento, da quanti anni ha incarichi prestigiosi, è stato presidente del Consiglio, adesso è presidente del COPASIR, è stato presidente, è stato ministro, voglio dire, è uno dei massimi statisti, dei massimi politici italiani. Avrebbe detto non mi candido in Parlamento per dimostrare che non sono attaccato alla poltrona al prossimo turno delle legislative. Vabbè, il Partito Democratico tra l'altro ha anche a che fare anche con l'inchiesta che coinvolge Penati, l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, esponente del PD in regione. Penati e le tangenti rosse di Sesto, è stata chiusa l'inchiesta, si va verso la richiesta da parte dei magistrati del rinvio a giudizio, secondo Repubblica, verso il processo, con altri 21 indagati. Il titolo che trovate a pagina 14 e 15 pretendeva 20 miliardi di lire, appalti a Coop e false mediazioni. Tutto il sistema Penati, almeno secondo la ricostruzione della Procura, spiegato anche per il secolo XIX, pagina 7, i PM dicono era la fondazione, il bancomat di Penati, la fondazione Fare Metropoli. Era solo uno schermo, 22 persone indagate, una società sotto accusa e il filone d'indagine con la richiesta del rinvio a giudizio, con la chiusura delle indagini nei confronti di Penati. Va bene, in questo bel clima della politica molto rasserenante, ieri ci sono state le nomine all'autority, eh? Un qualcosa che uno spettacolino da primissima repubblica per qualcuno. Hanno chiesto i curricula di molti italiani si sono affannati, hanno mandato, sono arrivati 90 curricula per il rinnovo delle cariche dell'Authority per le comunicazioni e l'Authority della privacy. Risultato: uno spettacolo appunto da prima repubblica, per qualcuno giusto il Parlamento deve decidere in piena autonomia, per altri una vergogna. Si è fatta la solita lottizzazione e spartizione tra partiti. Da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Allora, le nomine divise tra i partiti e polemica sulle Authority, titola così a pagina 10 il Corriere della Sera: scelti nelle segrete stanze dei partiti, ignorando i 90 curricula approdati in Parlamento, poi votati in aula senza sorpresa alcuna tra mille polemiche. A far discutere non è solo il metodo con cui la maggioranza che sostiene Monti ha nominato i componenti delle Authority, sono anche i nomi dei nuovi commissari. Frutto, denunciano per esempio i DV, Grillo, Sinistra e molti parlamentari delusi del PD, di logiche spartitorie in purissimo stile prima Repubblica. Ci sono i nomi, i volti, ovviamente. C'è per esempio Antonio Martuscello, eletto alla GCOM, uno tra i fondatori di Forza Italia, che intervistato da Antonello Caporale su Repubblica, pagina 11, dice: beh, se proprio dovessimo mettere i puntini sulle i, il mio curriculum non vale? E poi ancora: io sì, sono amico di Berlusconi, vorremmo aggiungere poi che però il Parlamento è sovrano, vogliamo aggiungere che molti colleghi mi hanno votato nel segreto dell'urna, è illiberale l'idea di togliere sovranità al Parlamento. Insomma, Martuscello difende questa scelta, mentre attacca molto Stefano Quintarelli, che è un informatico di 47 anni, era stato candidato da molti nella rete alla guida dell'Agicom, aveva mandato il suo curriculum, si era anche dimesso dal Sole 24 Ore dove lavorava, hanno dato poltrone a dermatologi e linguisti, ora attacca in un'intervista al Corriere della Sera: io mi sono dimesso, mi ero candidato, ha ottenuto credo 15 voti, ma ero un outsider rispetto ai partiti. E attacca Quintarelli: alla privacy ha messo Soro, che è un dermatologo, mentre Bianchi Clerici è laureata in lingue orientali, anche lei è alla privacy. In Inghilterra c'è un codice, peraltro riformato lo scorso 1 aprile, che prevede che le posizioni debbano essere pubblicate sui giornali internazionali, le candidature spontanee, che prima debbano essere esaminate da una commissione di esperti e che solo a quel punto il ministro, sulla base dei risultati, proceda. Insomma, un putiferio. Queste nomine di cui parleremo alle 8.30. Ovviamente c'è anche la polemica per la scelta di Augusta Iannini, una vita al Ministero della Giustizia. Incidentalmente, però, è innegabile, voglio dire, è un dato di cronaca che tutti i giornali riportano: moglie di Bruno Vespa, tanto che il Corriere della Sera titola così: Lady Vespa alla privacy. L'intervista, non è un'intervista, qualche parola estrapolata, qualche parola strappata da Dino Martirano a pagina 11. Dice Augusta Iannini: cosa pensa mio marito, cioè Bruno Vespa? Speriamo che ora farai una vita più tranquilla. Questo mi ha detto dopo la mia nomina alla privacy. Perché sa, le mogli alla fin fine devono tornare a casa prima dei mariti, altrimenti quelli alla lunga si innervosiscono. Tra l'altro, Augusta Iannini dice, la frase che secondo me è un po' più colpisce un po' di più tra le altre: e pensare che io sarei voluta tornare in magistratura, cioè, come dire, manco volevo diventare membro dell'Authority per la privacy. Tuona in prima pagina del Corriere della Sera su questo tema, nel suo editoriale, Sergio Rizzo: il mercatino delle autorità, questo è il titolo. È davvero bizzarro un paese nel quale si pensa di risolvere ogni problema creando una nuova authority. Questo è l'esordio dell'articolo di Sergio Rizzo. Sappiamo con certezza come saranno individuati i membri di questa ennesima authority. Dopo aver visto cosa è successo col garante delle comunicazioni, non ci facciamo illusioni. Sia chiaro, nessuno ce l'ha coi singoli. Non con Antonio Martuscello, ex dipendente di Berlusconi, ex onorevole azzurro sbalzato fuori ancora giovane dai ranghi più elevati del partito, che non poteva certo ritrovarsi a 50 anni soli nella penosa condizione di baby pensionato del Parlamento, né con Antonio Preto, ex capo di gabinetto del commissario europeo Antonio Tajani, autore di saggi insieme all'ex ministro Brunetta, ma neanche con Francesco Posteraro, vice segretario generale di Montecitorio sponsorizzato da Casini, che potrà sommare alla lautissima pensione della Camera anche i 260.000 euro dello stipendio da commissario Agcom, e neppure con Maurizio Decina, super esperto del settore indicato dal PD. Ce l'abbiamo con chi li ha scelti, per il modo in cui l'ha fatto. Attendersi che questi partiti rinunciassero alle loro prerogative, magari designando i componenti dell'autority con bandi pubblici europei, era forse troppo. E poi conclude Rizzo: almeno però la sceneggiata penosa dei curriculum, quella almeno ce la potevano risparmiare. Cioè la richiesta dei curricula e poi lasciati in un cassetto. Anzi, Di Pietro ha detto, li hanno usati come carta d'accesso. Non lo so se è così, anche perché immagino che sia una carta un po' poco fruibile, insomma, no? Però il dato di fatto è questo, ne parleremo alle 8.30. In due minuti devo segnalare le tante notizie riguardo alla situazione internazionale che oggi ho un po' tralasciato. Sullo sfondo l'allarme del Centro Studi Confindustria che trovate a pagina 2-3. L'Italia ottava tra i produttori, l'Italia dunque perde 3 posizioni e la domanda che manca, fa sapere Nicoletta Picchio, il credit crunch feroce unito alla bassa redditività, questi fattori penalizzano la crescita dei paesi avanzati, soprattutto l'Italia, col presidente di Confindustria Squinzi che dice la crescita deve essere la stella polare. E tra l'altro la crescita è il termine che pare Barack Obama abbia usato in maniera esplicita in una chiacchierata con Angela Merkel e con Mario Monti ieri, in vista della preparazione del prossimo vertice dell'Unione Europea. È un Barack Obama che pare abbia messo un po' alle strette Angela Merkel, la cancelliera tedesca. Secondo Federico Rampini su Repubblica, addirittura Obama arruola Monti, Hollande e Cameron. Se la Merkel non cede, va messa con le spalle al muro. Questa sarebbe la strategia della Casa Bianca, un Obama pronto a dire ora basta, la Merkel deve cedere su questo punto. Scrive Rampini, mai prima d'ora un presidente americano si era visto costretto a un simile ruolo di supplenza per riempire il grave vuoto di leadership europea. Obama si è alleato con Mario Monti, ha minacciato di isolare apertamente Angela Merkel. Il più urgente obiettivo per Obama è salvare le banche spagnole, secondo spezzare la spirale infernale di un austerity e puntare alla crescita. E dunque, ispirato al vecchio motto della politica americana, quando il gioco si fa duro, i duri entrano in gioco, pare che Obama abbia detto alla cancelliera tedesca o ti smuovi sul tema della crescita o l'America, gli Stati Uniti ti additeranno esplicitamente come la colpevole della situazione attuale. C'è una scadenza, il vertice europeo di fine mese. Insomma, questo per quel che riguarda la situazione internazionale, trovate questo retroscena su Repubblica. Che dire? Ci fermiamo qui per il momento? Sì, è tempo di giornale radio.